Disco Della Senza Manna. Radio Italia, solo musica italiana. Qui ci odiano tutti e a casa non apre nessuno. Mauro, è ora che io te lo dica, questo è stato tutto un lunghissimo errore. Tutto cosa? Tutta la canzone, tutta la nostra vita, tutto cosa? Ma no, ma sto scherzando, dai, era solo un modo carino per dirti che il disco della settimana di oggi, che vi racconteremo nella prossima mezz'ora, l'abbiamo introdotto con questa canzone che si chiama Un lunghissimo errore, di un album composto da 10 brani che a noi sta particolarmente a cuore. Ve l'abbiamo già raccontato un pochino di tempo fa, perché in realtà abbiamo intervistato questa band che ci piace, che vi abbiamo fatto ascoltare in tutte le salse, sostanzialmente non sono i Caracalma, stranamente, non ancora. No, anche perché i Caracalma ve li facciamo ascoltare dopo domani in un'intervista, quindi spoiler, mercoledì intervista ai Caracalma, che hanno appena rilasciato un singolo. Invece questo che avete appena ascoltato è una delle tracce dell'album Le Endrigo, il nuovo album de Le Endrigo. Esatto, che è il disco della settimana che abbiamo scelto per voi. In realtà siamo arrivati un po' lunghi, perché questo disco è uscito il 16 aprile, ve l'avevamo anticipato con un'intervista, poi anche il 1 aprile Lucri l'aveva un po' spoilerato, insomma, perché ci piace molto sia il progetto che hanno fatto Le Endrigo con questo album, e sia un'altra cosa in particolare, cioè il cambio del nome. Cambio del nome che è l'aggiunta di un articolo determinativo plurale femminile, quindi Le Endrigo. Prima erano solamente Endrigo e adesso hanno aggiunto questo articolo, che è parte integrante del nome, ci hanno spiegato, per una motivazione molto importante che è stata oggetto di dibattito tra amici sui social, parlando anche con varia gente. Molti dicono: vabbè, ma cos'è sta roba che voi vi mettete a fare le battaglie al posto delle donne, al classico mansplaining? E invece loro hanno fatto tutta una spiegazione molto importante, che dicono: noi vogliamo fare la nostra piccola parte, e questo qua vuole essere una specie di goccia nell'oceano contro le discriminazioni anche nel mondo artistico e musicale verso le donne. Esatto, quindi ve lo racconteremo un pochino meglio dopo, però quest'album ci sta a cuore appunto per tutti questi motivi. Abbiamo ascoltato un piccolissimo brano prima e adesso continueremo a raccontarvi l'album Le Endrigo con un altro pezzo. Mauro, che pezzo ascoltiamo? Ascoltiamo Smettere di fumare, che rispetto a Un lunghissimo errore che avete ascoltato prima, che era molto più punk, qui diventa malinconico, proprio un altro genere, sembra un altro disco, un'altra band. Invece sono sempre Le Endrigo e questa è Smettere di fumare. No. più preso in considerazione. Già mi dare via da qua. Ora so che non si smette di fumare mai. Davvero scusami. Dicevamo prima appunto che L'Endrigo è un album che segna un grande cambiamento e viene presentato così: oggi muoiono gli Endrigo, oggi nascono le Endrigo. Infatti gli Endrigo hanno cambiato nome diventando, come dicevamo prima, le Endrigo, annunciando questo album omonimo che è uscito per Garrincha e Manita Dischi. Loro ci dicono: siamo nati rubando un nome, appunto ci raccontano, e siamo rinati conquistandocelo e dandogli un senso che fosse nostro, di cui siamo sorprendentemente orgogliosi. Una volta deciso questo, abbiamo scritto 10 canzoni. L'ultima canzone, Non sono capace, che è l'ultimo brano che è stato firmato dagli Endrigo, una band appunto di Brescia, diciamolo Mauro, perché so che tu ci tieni molto a dire queste cose, e ha annunciato appunto un cambiamento davvero molto grande con un manifesto. Dicono gli Endrigo: in un mondo in cui un articolo determinativo fa ancora la differenza e comporta dei privilegi, noi scegliamo di liberarcene e unirci al coro e le battaglie di chi li vuole sradicare. Un gesto con cui scegliamo di provare a veicolare un messaggio alternativo a quello discriminatorio, macista e predatorio che spesso il mondo della musica si trascina quasi come una tradizione. Ecco, loro hanno proprio a un certo punto rilasciato questo brano, Non sono capace, accompagnato sui social da Questa è l'ultima canzone degli Endrigo. C'è stato un po' di panico, dice: oh, cosa fate? Getti il sasso e nascondi il braccio e sparite e vi sciogliete così all'improvviso? In realtà poi loro hanno lanciato appunto questo manifesto dicendo: no, non ci sciogliamo, non ce ne andiamo, non smettiamo di suonare, anzi cambiamo e rinasciamo. Un po' una rinascita è questa di Le Endrigo, dagli Endrigo alle Endrigo, con questo nuovo album, tra l'altro molto particolare. Infatti non è solo un cambio di nome, che è forse la cosa che è più importante di tutto questo percorso, ma anche il cambiamento di musicalità. Cioè, loro sono punk, hard rock, hanno sempre pestato durissimo. Poi vogliamo dirlo, perché non c'è la Lucri ma la renderà felice, hanno suonato al nostro matrimonio e hanno conquistato tutti, hanno fatto ballare tutti. Cioè, hanno veramente una musica che è importante. Possibile non ballare, non pogare in un qualche modo, finora però. Perché esatto. Effettivamente hanno spiegato anche loro che a un certo punto hanno detto: sapete cosa? Chi se ne frega, cioè noi facciamo quello che ci piace fare, se vi abbiamo abituato al punk fino adesso non vuol dire che continueremo a fare punk. E proprio per questo hanno anche fatto una canzone che adesso vi faremo sentire, che fa parte delle 10 tracce che vi ricordiamo compongono l'album Le Endrigo, che si chiama Standard Rock, per chi ci ascoltava prima ed ora è deluso. Sono gli effetti collaterali che fottono, che ci fottono. Sono gli effetti collaterali che fottono, che ci fottono. Madonna, come stavo bene ieri. Ho già grandi progetti e oggi è già domani. Forse tornerò anche divertente. Ogni cosa sembrerà veramente illuminata. L'ora era cresciuta sulla gola. Fai fiori su fiori. Convincerò che non ho colpa comunque. Sono gli effetti collaterali che fottono, che ci fottono. Sono gli effetti collaterali che fottono, che ci fottono. Sono gli effetti collaterali che fottono, che ci fottono. Sono gli effetti collaterali che fottono, che ci fottono. Thank you. sconfitta. Se per soddisfarmi amici scrivo e canto contro voglia ciò che vi aspettate voi da me. Sono gli effetti collaterali che fottono, che ci fottono. Ma chi sono le Endrigo? Allora, le Endrigo sono Gabriele Tura, Matteo Tura e Ludovico Gandellini. Gabriele suona voce chitarra, Matteo voce basso piano e tutto quello che serve, c'è proprio scritto nella spiegazione, e Ludovico alla batteria. Nascono a metà degli anni 10, quindi 2015-16 circa. Pensavo 1910. 1910, in un posto vicino a Brescia, chiamato Villaggio Sereno. Un villaggio sereno, tranquillo, pacioso. E sottolineano, sì, esiste veramente. Tra l'altro loro hanno una canzone che si chiama Straight Out of Villaggio Sereno. È stata una merda senza di voi. Che fa così. E rubano un nome già pronto, appunto, Endrigo, così. Usano i pochi accordi che conoscono, cioè il giro di Do, e si chiudono nella cantina di casa Tura. Cosa è successo da allora? Da allora hanno fatto due dischi, tra l'altro uno è lì che ci guarda, Ossa Rotte e Occhi Rossi, prodotto tra l'altro da Jacopo Gigliotti dei Fast Animal and Slow Kids insieme ad Andrea Marmorini, e Giovani Leoni, che è un altro album pazzesco. Posso dire che io pensavo si chiamasse Giovanni Leoni e poi l'ho capito dopo che era Giovani Leoni. Sono un po' rimbambita, insomma, si può dire. Sì, beh, succede. Poi suonano un po' di qua e un po' di là. Noi li abbiamo visti per esempio al TPO in occasione di Indie Pride ormai un paio d'anni fa, quando ancora si suonava dal vivo. Poi, ricomponiti. Poi li abbiamo visti quest'estate al Diluvio Festival in provincia di Brescia, dove li abbiamo impezzati tantissimi per farli venire appunto a suonare al nostro matrimonio, ecco, mettiamola così. E poi niente, poi hanno tutto questo percorso musicale e artistico li ha portati a produrre le Endrigo, questo nuovo album uscito il 16 aprile per Garrincia Dischi e Manita Dischi. Ecco, diciamo anche che oltre ad avere suonato a Pavignale di San Felice sul Panaro, al TPO e al Diluvio, in realtà hanno fatto oltre 300 concerti, quindi ci dicono anche tra bar di posti dimenticati e festival giganti da nord a sud, specificano che non dicono di no a niente. Pare abbiano suonato anche in Basilicata, e se voi ascoltate la canzone Questa è la casa, loro dicono: noi siamo in Basilicata, scusa se non ti ho risposto, non prende il telefono, nessuno conosce i Fugazzi, quindi anche in Basilicata. Beh, magari anche in Molise, ma non esiste, chissà. Vabbè, detto questo, insomma, questi sono gli Endrigo, diventate le Endrigo appunto il 16 aprile di quest'anno, il 16 aprile 2021, con l'uscita del nuovo album e con il nuovo progetto seguito da un manifesto, anzi anticipato da un manifesto. A questo punto continuiamo a scoprire la musica delle Endrigo. Io farei ascoltare una canzone che secondo me è molto importante e poi vi spiegheremo perché. Si chiama Il cazzo enorme di chi suona. Ascoltiamola. Cazzo. Il cazzo enorme di chi suona. Ok. Noi spezziamo il pane, spezziamo il cuore, spezziamo il pass a chi non vuole. È caccia aperta ad ogni mene, col fiocco appeso alla sua chiave. No, tranquillo, lei è con noi. No, tranquillo, lei è con noi. Più su del cielo c'è il cazzo enorme di chi suona. Più blu del mare c'è il cazzo enorme di chi suonerà. Thank you. volevamo raccontarvi il cazzo enorme di chi suona, cioè non perché a noi piace dire le parolacce, ecco, però perché... Ah, no. Cioè, se vuoi puoi dirlo. Ok, cazzo, okay. Cazzo. Ok. Ora, prima che cambiate, vi sintonizzate su un'altra radio, in realtà vi spieghiamo che poche settimane fa abbiamo intervistato le Endrigo, Gabriele delle Endrigo, che appunto è stata la voce di tutta la band, la voce di questo cambiamento, per raccontarci il perché loro hanno scelto di fare questa cosa. E soprattutto quello che ci dicono è che il loro manifesto sì vuole portare l'attenzione su un grande problema che c'è nel mondo della musica, cioè il fatto che il mondo della musica è dominato da una visione predatoria, macista, in cui le donne spesso faticano a trovare il proprio posto, a trovare uno spazio e a ricevere attenzione, o anzi delle volte ricevono delle attenzioni inappropriate, diciamo. Quello che ci dicono loro è: noi non è che non l'abbiamo mai fatto, non è che possiamo dire di non essere mai stati parte di appunto questa tendenza che adesso vogliamo combattere, però la cosa importante è rendersene conto, parlarne e in un qualche modo dare voce appunto alle donne, senza però metterci al loro posto, perché quello che ci dicono nell'intervista è che appunto sono stati criticati per il mansplaining, come diceva prima Mauro, cioè voi avete iniziato a portare avanti una battaglia che però non è vostra perché è delle donne. Le Endrigo ci hanno tenuto a spiegarci che in realtà loro si sono confrontati con tantissime amiche, tantissime conoscenti, tantissime donne che lavorano nel mondo della musica, per capire quale poteva essere il modo migliore per supportarle, quindi non per mettersi al loro posto. Quindi vi invitiamo, se vi interessa, a andare a cercare l'intervista. Potete trovarla in podcast su Radio Città Fujiko o su festivalsbackpack.it. E a questo punto direi che vi abbiamo un po' raccontato questo album, speriamo che le canzoni che abbiamo scelto per voi siano, insomma, appunto vi siano piaciute. La cosa che ci teniamo a dire è anche che loro su questo cambiamento del genere musicale hanno voluto esprimersi dicendo una frase molto importante: d'altronde noi siamo sempre stati un po' dei rompicoglioni, se ci dicono che dobbiamo salvare le chitarre elettriche immediatamente ci viene voglia di pianoforte, ma alla fine torniamo sempre a fare rumore a modo nostro. A questo punto vi facciamo ascoltare Cose più grandi di te, vi invitiamo a scoprirli con tutta la loro discografia e tutte le loro canzoni, noi li amiamo un sacco, quindi vi invitiamo a farlo anche a voi. Amateli, amatele Endrigo. Sei giusto. A questo punto, cioè, ti chiediamo di lanciare un messaggio agli ascoltatori di Radio Città Fujiko sul... e alle ascoltatrici sul perché ascoltare questo nuovo album dell'Endringo. Allora, ascoltatelo perché secondo me in questo periodo un dischetto, diciamo, di tre disperati che ci mettono la faccia, anche se non se lo potrebbero permettere perché sono tre facce molto poco credibili, insomma, potrebbe essere qualcosa che vi cambia un po' la routine, ecco, con grande umiltà che non ho avuto nel dire questa cosa. Sanno nemmeno che sia.